Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Settimana dei cattolici a Trieste, in Camera di Commercio, tavola rotonda su democrazia e Costituzione con alcuni presidenti emeriti della Corte Costituzionale. Il cadavere di una donna ritrovato sul Carso nella zona di Samatorza, si tratta della 69enne che più di 2 settimane fa era scomparsa da Sales. Udine, 20enne grave dopo essere stato ferito a colpi di coltello in piazza Primo Maggio, nuovo episodio di violenza mentre la città si appresta a dare il saluto a Shinpei Tominaga. Giulio Regeni, le trappole degli 007 egiziani, anche l'ultima festa di compleanno del ricercatore al Cairo era stata infiltrata dai servizi. Incendio a Trieste in un appartamento in via Bonomea, una mamma e un bambino portati al pronto soccorso per aver inalato il fumo. Portuali in sciopero, terzo giorno della protesta nazionale per il rinnovo del contratto a Trieste Monfalcone, operatività ai minimi termini. Serre di Miramare restaurate, l'intervento illustrato dagli architetti, questa sera l'inaugurazione per il pubblico. A Sacile sempre più green i pianoforti della Fazioli. Calcio, Udinese in trasferta nella prima giornata del massimo campionato. I bianconeri giocheranno a Bologna. Sono le 12, quasi 32 minuti. Ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. A Trieste prosegue la settimana sociale dei cattolici che ieri ha visto al centro congressi del Porto Vecchio l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella e sabato si chiuderà con la messa di Papa Francesco in Piazza Unità. Oggi l'appuntamento di maggiore risalto è domenica, la tavola rotonda in Camera di Commercio su democrazia e Costituzione, tra i relatori alcuni presidenti emeriti della Corte Costituzionale. L'Europa non può più pensare alla questione migratoria come a un'emergenza, non lo è più da tempo, il problema è strutturale, va gestito, con queste parole Giovanni Maria Frick, giurista ed ex presidente della Corte Costituzionale, porta il tema delle migrazioni al centro della conferenza dedicata a democrazia e Costituzione promossa dall'Unione dei Giuristi Cattolici in occasione della settimana sociale dei cattolici in corso a Trieste. Dopo l'inaugurazione del Presidente della Repubblica Mattarella, è oggi il primo giorno di lavori in città, con conferenze aperte al pubblico. Al centro congressi di Porto Vecchio invece sono i delegati a confrontarsi in incontri a loro dedicati. Tornando al convegno di Piazza della Borsa, presenti tutti ex presidenti della Corte Costituzionale, a distanza l'unico Giuliano Amato, gli altri erano in presenza, tra cui Ugo De Siervo, Cesare Mirabelli e poi appunto Giovanni Maria Flick. Lo abbiamo intervistato, sentiamo. L'Italia e l'Europa, che sono ancora, chiamiamolo, un paradiso del benessere, cercano di difendersi in qualsiasi modo e considerano l'immigrazione non come un fatto epocale, biblico, ma come delle emergenze. Dobbiamo cominciare a considerare l'immigrazione, la immigrazione, come un fatto di realtà e cercare di inserirla nel discorso italiano ed europeo, considerando i migranti una risorsa e affrontandoli con delle impostazioni strutturali più che non con delle reazioni di emergenza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca nera, il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto da un escursionista in una zona boschiva nei pressi di Samatorza, sul Carso triestino. Il corpo, che si trovava sul fondo di una dolina, è quello della 69enne Sanislava Mokole, che era scomparsa da casa il 17 giugno scorso e per diversi giorni era stata cercata dalle squadre di soccorso nell'area di Sales, dove la donna risiedeva. Poco fa l'identificazione ufficiale da parte dei familiari. Ancora cronaca nera, un altro grave episodio ieri sera a Udine, dove un giovane di 20 anni è stato ferito in modo grave a colpi di coltello durante una lite, accaduto in piazza Primo Maggio. Piazza Primo Maggio a Udine è stata teatro di una nuova aggressione avvenuta intorno alla 22. Un ragazzo di 20 anni di nazionalità pakistana è stato ferito da un fendente alla spalla sinistra. L'aggressore, presumibilmente della stessa nazionalità, è fuggito prima dell'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile. Secondo alcuni testimoni, il ventenne ferito era in compagnia di una persona in evidente stato di alterazione psichica che prima ha inveito verbalmente contro le persone che erano accorse a prestare soccorso. Pochi istanti istanti dopo, dall'altra parte della piazza, è arrivata una volante dei carabinieri, i cui occupanti hanno preso in mano la situazione, calmando il ragazzo e sollecitando i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno condotto il ferito in ospedale a Santa Maria della Misericordia per le cure del caso, dove si trova ancora ricoverato. Un episodio di cronaca che avviene a poche ore dal saluto che la città si appresta a dare a Shinpei Tominaga, l'imprenditore 56enne deceduto dopo essere stato picchiato per aver tentato di sedare una rissa provando a soccorrere un giovane che stava chiedendo aiuto. Nel pomeriggio in sala Iace, dalle 17.30 alle 19.30, sarà esposta la bara. D'intesa con la famiglia, il comune ha organizzato l'ultimo silenzioso abbraccio della città. In occasione del commiato a Tominaga, il comitato di Borgo Poscolle darà un forte significativo segnale di vicinanza e affetto nei confronti della famiglia. Tutte le luci delle attività infatti saranno spente per 10 minuti a partire dalle 17.30. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il processo per l'omicidio al Cairo di Giulio Regeni. Nell'ultima udienza sono emersi nuovi particolari sulla stretta sorveglianza a cui il regime egiziano aveva sottoposto il ricercatore di Fiumicello. Per 3 volte la sua abitazione fu perquisita prima e dopo il rapimento e persino l'ultima festa di compleanno di Giulio fu infiltrata dai servizi. Il servizio di Maria Chiara Grandis. Una torta, le candeline, i sorrisi. Sono le foto del 28° compleanno di Giulio Regeni, festeggiato in Egitto, l'ultimo prima di essere sequestrato, torturato e ucciso. Emerge ancora di più la ragnatela in cui si è trovato invischiato Giulio. Sembrerebbe addirittura anche la festa di compleanno sia stata quasi un tranello, insomma. In aula testimonia il professore con il quale il giovane ricercatore doveva incontrarsi quel 25 gennaio 2016, un appuntamento al quale Giulio non si presentò mai. Fin dall'inizio non sono tranquillo, mi pareva strano che non mi stesse contattando per dire nulla, c'è una persona estremamente puntuale. C'era una situazione che avrei definito di paranoia da parte del regime. Oh. Tanto che per la sua sicurezza il professore poi rientrò a Roma. Gli investigatori italiani raccontano che i servizi egiziani perquisirono almeno 3 volte al Cairo la casa di Regeni, perfino quando i genitori erano già lì per cercarlo e alloggiavano proprio nel suo appartamento. Come sempre erano in tribunale insieme al popolo giallo, assenti gli imputati, i 4007 dei quali il governo egiziano non ha mai fornito gli indirizzi. Nella prossima udienza fra i testimoni è citato anche l'ex premier Matteo Renzi. Complesso intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Trieste per l'incendio scoppiato in un appartamento al 4° e ultimo piano di uno stabile in via Bonomea. L'allarme è stato dato intorno alle 10.30. Sul posto i pompieri sono accorsi anche con un'autoscala dalla quale sono stati indirizzati i getti d'acqua verso una veranda dalla quale probabilmente sono partite le fiamme. Lo spegnimento è stato completato nel giro di un'ora. 2 persone, una mamma e il suo bambino, sono state portate al pronto soccorso a scopo prudenziale perché avevano inalato del fumo. Per il momento non ci sono notizie sull'agibilità dello stabile. I temi sindacali, nuova puntata nella vertenza Varzila oggi a Trieste, un incontro con la multinazionale, il gruppo MSC, che subentrerà nel sito di Sandorligro, è in programma nel primo pomeriggio dopo l'assemblea dei lavoratori di questa mattina. Intanto 3ª giornata di sciopero per il contratto da parte dei portuali, la protesta è nazionale. Le gru ferme, i camion che entrano a singhiozzo, l'operatività ridotta. Al porto di Trieste il 3° giorno di sciopero. La stensione al lavoro dei lavoratori portuali dura da martedì e andrà avanti ancora nelle prossime 36 ore. Ieri e l'altro ieri a dichiarare la protesta era stata la UIL Trasporti. Oggi e domani tocca a CGL e CISL. Ma in tutte le giornate lo sciopero è stato molto partecipato. A singhiozzo lo scarico delle navi rinfuse. Va un po' meglio la situazione nel terminal RoRo. Lo sciopero è nazionale, riguarda il mancato rinnovo del contratto scaduto a dicembre, la richiesta di un aumento in busta paga in linea con l'inflazione subita negli ultimi anni attorno al 18%, molto più bassa l'ultima proposta ricevuta la scorsa settimana, meno del 13%, con l'incremento scaglionato nel tempo e composto da una consistente quota di welfare aziendale che però non va in contribuzione. I sindacati chiedono un tavolo ministeriale visti i pochi progressi nelle trattative, minacciando un altro pacchetto di giorni di sciopero a partire già dalla prossima settimana. Sempre nel mondo del lavoro intanto, nel pomeriggio proseguiranno gli incontri tra sindacati Varzila e MSC, che potrebbero andare avanti ad oltranza. In mattinata c'è stata una partecipata assemblea dei lavoratori che contano di chiudere la partita ottenendo degli incentivi all'esodo per i dipendenti della multinazionale finlandese, che andrebbero a coprire parte della differenza in busta paga nel passaggio al colosso svizzero. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla politica. Il Senato ha rimosso la parola incuria dalla legge sulla memoria del Vajont. Lo ha deciso all'unanimità la Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama su proposta del segretario regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto. La modifica del testo originario, richiesta a gran voce da superstiti e comuni, è stata ritenuta talmente condivisibile da non dover nemmeno passare per l'Aula. Il provvedimento è stato approvato in sede legiferante, diventando automaticamente norma. Ora l'atto passa alla Camera dei Deputati per il nulla osta definitivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In Consiglio regionale la manovra estiva di assestamento ha cominciato l'iter nelle commissioni. Questa mattina il pacchetto di legge di bilancio viene illustrato dalla Giunta, la prima commissione integrata. 1.348.000.000 di euro, questa è la dotazione finanziaria dell'assestamento di bilancio 2024, con un avanzo di amministrazione di 698.55 milioni, 300.000.000 di euro in più rispetto allo scorso anno. Sono i numeri presentati dall'assessora alle finanze Barbara Zilli alla prima commissione, che questo pomeriggio entrerà nel dettaglio con l'analisi delle scelte compiute dalla Giunta per arrivare all'esame del Consiglio regionale il 23 luglio. La posta più consistente va alle finanze, 528 milioni, segue la voce per le infrastrutture e il territorio. La Giunta ha deciso di aumentare il capitale di Autostrade Alto Adriatico con 95 milioni finalizzati al completamento della terza corsia. 169 milioni per la salute, le politiche sociali e disabilità, dove gli investimenti nella sanità ammontano a 104 milioni. 164 milioni per le attività produttive e turismo. Alla protezione civile vanno 44 milioni, dove la Giunta ha deciso di anticipare le risorse che lo Stato pagherà solo nel 2025 per l'emergenza maltempo del 2023. La posta per il lavoro, formazione e famiglia ammonta a 7 milioni, la cultura e lo sport 40 milioni, di cui 1,5 per Go 2025. Una manovra con numeri imponenti, il commento dell'assessora Zilli, che fornisce risposte concrete alle esigenze del territorio. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora una notizia di cronaca nera: 140 kg di tabacco di contrabbando da masticare sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia. La merce era stata messa in vendita tra il capoluogo lagunare, Padova e Udine in negozi specializzati in generi alimentari. Due persone di origini pakistane sono state denunciate. Il tabacco da masticare veniva acquistato principalmente da cittadini bengalesi e pakistani. 12.43, passiamo al meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianure e costa, nuvolosità variabile sui monti. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 25 gradi. A Udine e Gorizia 23, a Pordenone 24 gradi. In Aramontana Tolmezzo 21, Tarvisio 16, Forni di Sopra 18 gradi, Sappada 12, Piancavallo 14. In quota su Monte Lussari 9 gradi e su Monte Zoncolan 19, sulla costa Grado e Lignano 23, la temperatura del mare in entrambe le località è di 24 gradi. E ora le previsioni a cura dell'ARPA. Nel pomeriggio su pianure e costa avremo cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo in genere variabile con maggiore nuvolosità dal pomeriggio, e sulla fascia alpina venti a regime di brezza, temperature massime in aumento. Domani su pianure e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana poco nuvoloso, venti ancora a regime di brezza. A Trieste riapriranno stasera pubblico le 800 serre del Parco di Miramare, che torneranno così fruibili dopo un impegnativo intervento di restauro che ha consentito di mantenere l'aspetto esteriore e adeguare l'edificio alle esigenze odierne. Rinasce uno degli edifici più importanti del Parco del Castello di Miramare, elegante, estetico e nuovamente funzionale. Il restauro è stato conservativo, mantenendo inalterato il progetto della seconda metà dell'Ottocento. Andreina Contessa, direttrice del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare. È proprio il periodo, l'Ottocento, nel quale c'è il maggiore sviluppo della coltivazione in serra, che viene anche a rispondere all'arrivo di tante piante dal mondo lontano, che devono essere riacclimatate in un clima più caldo e quindi in una serra. La difficoltà maggiore del restauro è stata mantenere l'aspetto esteriore. Il giusto microclima verrà garantito dal riscaldamento radiante a pavimento pavimento, dalle luci a compensazione UV e dai termostati autoregolanti. Le temperature non scenderanno mai sotto lo zero. Carlo Manfredi, architetto e responsabile dei lavori. Non si abbasserà mai sotto una soglia che possiamo elevare fino alla temperatura di 12 gradi a seconda delle piante, delle essenze che potremo ospitare all'interno della serra. Troppo rigido il clima triestino di fine 800 che impedì a Massimiliano di creare un giardino mediterraneo nel quale far crescere le piante d'agrumi, ma che da oggi troveranno le condizioni giuste. La collezione di piante d'agrumi, iniziata nel 2020, verrà implementata. Dall'orangerie nasce anche un'ottima marmellata. Giorgia Ottaviani, architetto. Questa è proprio una strategia che abbiamo deciso di abbracciare, ossia coltivare un prodotto di grandissima qualità che anche a detta degli chef che si sono, sperimentati su questi prodotti è di altissimo livello. Andrei Marucic, TGR Friuli Venezia Giulia. A Sacile, la Fazioli, tra i più prestigiosi costruttori mondiali di pianoforti, moltiplica i propri sforzi sul fronte ambientale. Legni certificati, tasti senza piombo e ora un nuovo impianto fotovoltaico che, insieme a quelli già installati, consentirà di produrre il 70% dell'energia necessaria allo stabilimento. Si chiama F198 ed è l'ultimo nato in casa Fazioli, la storica azienda di pianoforti con sede a Sacile. Realizzato con legni certificati e da energia rinnovabile, è il più green del catalogo. Paolo Fazioli, fondatore e patron dell'azienda. Noi abbiamo praticamente impiantato già due impianti fotovoltaici che funzionano perfettamente e adesso stiamo pensando ad un terzo. Però in questo caso questo terzo avrà anche l'accumulo di energia, cioè la corrente elettrica che in quel momento non saremo in grado di poter utilizzare potrà essere attraverso gruppi di batterie accumulata. Per quanto riguarda i materiali costruttivi abbiamo naturalmente i nostri tipi di legni con determinate provenienze, anche in questo caso le provenienze da cui questi legni arrivano sono comunque provenienze di boschi controllati. L'azienda è anche già pronta alla sostituzione del piombo con l'ottone per l'appesantimento dei tasti in un'idea di fabbrica proiettata a un futuro sostenibile. Ancora Fazioli. Noi facciamo prodotto di qualità, ma quando parliamo di qualità generale. La qualità non deve solamente interessare il prodotto in sé, ma tutto quello che ci sta intorno. La qualità sta anche nel cercare di contribuire, di dare un contributo all'ambiente. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport. Calcio, debutterà in trasferta contro il Bologna, l'Udinese, nel prossimo campionato di Serie A, il cui calendario viene stilato in questi minuti a Roma. Subito un avversario impegnativo dunque per la squadra di Runjic contro una delle squadre rivelazione dell'ultimo torneo. Alla seconda giornata l'Udinese ospiterà al Friuli la Lazio, al terzo turno ancora in casa con il Como, poi trasferta a Parma, nuova trasferta alla quinta giornata contro la Roma e alla sesta la sfida interna ai campioni in carica dell'Inter. Ancora una big all'undicesima giornata, si tratta della Juventus. La massima serie comincerà nel fine settimana del 17-18 agosto e si concluderà il 25 maggio. In mezzo quattro soste per gli impegni della nazionale, un unico turno infrasettimanale il 30 ottobre per l'Udinese. Gli impegni ufficiali si apriranno tra il 10 e 11 agosto con la Coppa Italia. I 32esimi di finale i friulani ospiteranno la vincente fra Juve, Stabia e Avellino, che saranno di fronte una settimana prima. E ora l'atletica leggera, grande cast per il meeting Sport Solidarietà che andrà in scena a Lignano Sabbiadoro il 14 luglio. Poco fa la manifestazione è stata presentata a Udine dallo staff della società organizzatrice La Nuova Atletica dal Friuli. È un piccolo anticipo dei giochi olimpici quello che andrà in scena domenica 14 luglio allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro con il 35esimo meeting internazionale di atletica leggera, sport e solidarietà, il cui programma è stato presentato a Udine. Giorgio Dannisi, presidente Nuova Atletica dal Friuli, che organizza il meeting. In questi anni noi abbiamo ospitato al nostro meeting oltre 200 atleti che hanno vinto poi medaglie alle Olimpiadi e ai campionati del mondo. Avremo atleti da 30 paesi tutto il mondo e tutti i continenti e vengono a cercare i tempi perché sono a ridosso delle Olimpiadi. Come da tradizione ci saranno diversi nomi di spicco dell'atletica leggera italiana e internazionale, a partire dai fenomeni della nazionale giamaicana, di casa da anni a Legnano. In particolare la quattrocentista Sherika Williams, più volte sul podio mondiale olimpico, e lo sprinter Kishane Thompson, primatista stagionale dei 100 metri. Alla gara regina parteciperà anche Samuele Ceccarelli, campione europeo indoor sui 60 metri, alla guida di una rappresentanza azzurra che comprenderà tra gli altri il campione europeo indoor di getto del peso Zane Weir, la friulana Giada Carmassi, neocampionessa italiana dei 100 ostacoli, e le idole di casa Giorgia Bellinazzi e Aurora Berton a caccia di conferme nei 100. Ma il meeting sarà anche un appuntamento inclusivo con le gare Special Olympics che vedranno assieme atleti normodotati e disabili. Abbiamo due nomi di grande spicco che sono la Sabatini, che sarà anche la portabandiera alle Paralimpiadi. Udine, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni libri di cui si parla oggi. A Legnano, per la rassegna Incontri con l'autore con il vino, l'autrice di romanzi Rosa Rocchia presenterà il suo libro Guilty, Drunk in Love di Magazzini Salani al Palapineta alle 18.30. Ancora in spiaggia, Maria Giovanna Elmi e Alex Pessotto intervisteranno Maldei Primitives per il primo appuntamento della rassegna Libri e Autori a Grado al Velarium Gita alle 17.30. L'ultimo romanzo giallo di Paolo Picchier, intitolato La chiave di Via Rastello per Rossini Editore, sarà presentato dall'autore a Monfalcone nella Biblioteca Comunale alle 18. Il volume di Mirella Branca, intitolato Gilberto Barburini, grafica pubblicitaria e pittura, ricostruzione della vicenda dell'artista fino alla maturità e al ritorno in Friuli, sarà presentato a Udine, a Palazzo Florio, alle 17. Il porto nel cuore, ricordi, storie e protagonisti attraverso gli occhi di un portuale curato da Claudio Sibelia sarà presentato a Trieste all'ex lavatoio in via San Giacomo in Monte alle 18.30. Il libro dell'attivista e scrittrice friulana Gaia Baraccetti, intitolato Ai turisti e ai viaggiatori, dedicato ai motivi per i quali viaggiamo e alle conseguenze ambientali e sociali del viaggio, sarà presentato a Udine alla libreria Friuli alle 18. Racchiude 10 anni di viaggi tra Bulgaria, Romania, Albania ed ex Jugoslavia il libro Balkan Football Club di Gianni Galleri, in presentazione a Udine al parco Peter Pan in via di Brazza alle 18.30. La presentazione del libro Paradiso, l'ultimo bagliore di Alessandro Pennazzato sarà l'evento inaugurale della rassegna Luci e ombre sul Carso della Grande Guerra a Fogliano Re di Puglia alla Dolina dei Bersaglieri alle 18.30. Scritto dall'udinese Cristina Noacco, il libro Timavo, Natisone, Isonzo, Fiumi, Uomini e Confini sarà presentato a Udine nella sede della Società Alpina Friulana in via Brigata Re alle 21. Con questa panoramica chiudiamo l'edizione meridiana del GR che è stato redatto da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 12.53, la prossima edizione del GR regionale alle 15. Grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.